Dunque vediamo. Martedì scorso un'inserzione a pagamento pubblicata su vari quotidiani a cura di una finora sconosciuta Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ci informa che il governo, d'intesa con l'Arma dei Carabinieri, vuole far votare al Parlamento un provvedimento pericoloso per le istituzioni democratiche, illogico ed inutile. Citazione, che scardinerà definitivamente il già precario sistema del coordinamento tra le varie forze di polizia, altererà essenziali equilibri democratici, attribuendo ai corpi militari di polizia poteri esclusivi e sottratti ogni forma di reale controllo, distoglierà ingenti risorse umane e materiali dai compiti di sicurezza civile e di contrasto del crimine, dequalificherà il profilo professionale dei funzionari di polizia. Il tutto con il solo scopo di soddisfare i personalismi e le ambizioni di pochi. Insomma, un provvedimento che aumenterà i poteri dei carabinieri a danno di quelli dei poliziotti. Al progetto sembra tengono in modo particolare i vertici, o meglio qualche vertice dei carabinieri stessi, vertice che bussa alla porta condizionando o ricattando qualcuno. È una citazione anche questa. Ce ne sarebbe quanto basta, si legge, per configurare il reato d'attentato contro gli organi costituzionali dello Stato, ma nessuno finora ci ha badato e i lavori sono proseguiti in colpevole silenzio. Ora, il cittadino sa che la Camera dei Deputati sta per votare la legge 6249 sul riordino delle forze di polizia, che prevede una nuova configurazione istituzionale dell'Arma dei Carabinieri e nuove forme di coordinamento tra le sue strutture e quelle della Polizia di Stato. Ma non si preoccupa più di tanto. A un annuncio pubblicato a pagamento di solito non si presta una grande attenzione, perché si dà abbastanza per scontato che a tali forme di comunicazione ricorrano solo i soggetti cui manca l'autorevolezza necessaria per far conoscere in altro modo le proprie opinioni, dei poveracci in sostanza, cui proprio in quanto tali non si bada. Oltretutto la denuncia è veemente, ma non è chiarissima nei particolari. Eppure il ministro dell'Interno sente il bisogno di precipitarsi martedì stesso in Parlamento per assicurare che sono tutte balle, che nessuno ricatta nessun altro e che tra carabinieri e polizia regnano come non mai rispetto reciproco e volontà di collaborazione. E analoghe dichiarazioni rilasciano il presidente della Camera, l'onorevole Gasparri di Alleanza Nazionale, chissà perché, l'onorevole Frattini di Forza Italia, idem il SIUL e l'ISIPO, che scopro essere due sindacati di polizia, e persino il COCER dei Carabinieri, che dovrebbe essere una specie di struttura rappresentativa, ma notoriamente non dice mai niente su cui non siano perfettamente d'accordo i comandi. Ora, la legge in questione è stata regolarmente votata dalla Camera il giovedì successivo. Non è passata però con i voti del centro-sinistra. È strano, non tutti nella maggioranza ci sono stati ed è stata determinante l'astensione del polo. E comunque il testo è stato modificato in extremis, si legge sui giornali, sull'onda delle proteste dei funzionari di polizia. E i carabinieri conquistano l'agognata autonomia dall'esercito, ma il coordinamento interforze resta al Ministero dell'Interno, che eserciterà mediante il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di qualsiasi cosa sia, e che suscita nell'arma delle reazioni pur moderate nei toni, ma non esattamente entusiaste. Beh, ammetterete che tutto questo è strano. Il fatto che in tema di riordino della polizia, che non è mica una cosa da niente, il governo perda la maggioranza e necessiti del fraterno sostegno dell'opposizione e dovrebbe suscitare a prima vista una certa attenzione, un certo interesse. Eppure non ci ha badato nessuno e tutti i giornali quel giorno hanno preferito dedicare la prima pagina ai rapporti tra il governo stesso e il Festival di Sanremo, o anche alle retromarce di Bassolino. E ammetterete pure che è singolare che l'inserzione a pagamento di un'organizzazione sconosciuta e un comunicato smentito a gran voce dal Ministro, dal Presidente della Camera, dagli onorevoli Gasparri e Frattini, dal SIULP, dall'ISIPO, dal COCER dei Carabinieri, abbia avuto nonostante tutto il potere di far modificare una legge giunta ormai all'approvazione finale, provocando una crisi improvvisa della maggioranza che l'aveva sostenuta fino a quel punto. Il sospetto che quell'oscuro messaggio sia suonato alle orecchie opportune meno oscuro di quanto fosse sembrato a noi, a questo punto è piuttosto forte. Ma nessuno si prenderà mai la briga di spiegarci che cosa è successo. Io personalmente non l'ho capito. Ma in fatto di pubblica sicurezza, devo ammettere, sono sempre stato uno zuccone. Io non ho mai neanche capito perché in Italia debbono esistere a tutti i costi ben due polizie, una civile e una militare, autonome l'una dall'altra, ciascuna con le sue strutture centrali e periferiche, e il problema apparentemente insolubile di coordinarle o di farsele coordinare con quelle della concorrenza. Che vuol dire brutalmente chi comanda chi e chi viene appoggiato da chi. Per cui se un giorno i carabinieri sono cari al governo, la polizia diventa ipso facto carissima all'opposizione e naturalmente viceversa. Con quanto beneficio per l'imparzialità di entrambi i corpi e per la sicurezza democratica delle istituzioni è facile immaginare. D'altronde non c'è molto di democratico in un dibattito che procede mediante lo scambio di messaggi cifrati più o meno a pagamento. Oggi molti concittadini si preoccupano della propria sicurezza e invocano per vedersela garantita rigorosi giri di vite e l'irrogazione a pioggia di secoli di carcere a destra e a manca. E forse anche l'idea di smetterla con questo gioco delle parti meriterebbe d'essere presa in considerazione.